Benvenuti. Oggi ci addentriamo un po' in come cambiano i metodi di lavoro, sa, specialmente per chi lavora con i contenuti. Sì, pensiamo ai giornalisti, a chi racconta storie, ai divulgatori. Esatto. Tutti alle prese con questa rivoluzione dell'intelligenza artificiale. Oggi cerchiamo di capire, basandoci su una guida pensata proprio per loro, come possiamo adattare il nostro approccio, le strategie. Proprio così. L'obiettivo, direi, è capire come usare questi nuovi strumenti. Beh, in modo efficace, intelligente, senza però perdere di vista il valore umano, quella scintilla che l'IA non ha. Che poi è la creatività, l'esperienza. Certo. Parleremo di come inserirla nei processi creativi e anche dell'importanza di avere il giusto mindset, l'approccio mentale corretto. Perfetto. Allora, partiamo subito da un punto che mi sembra centrale. L'IA è un aiuto, un supporto, non ci sostituisce del tutto. Assolutamente. È un assistente, forse un copilota, ecco. Ma non può replicare l'essenza dell'umano, la creatività vera, lo spirito critico, l'esperienza vissuta. Non può avere ricordi, sognare. Esatto. O dimenticare apposta certe cose, cosa che a volte serve tantissimo per creare. Genera testi, immagini, certo, ma non ha un'intenzione creativa sua. È uno strumento. Quindi questo significa niente copia e incolla facile facile, giusto? Beh, se si vuole qualità, direi di no. Usarla bene, con criterio, può migliorare il lavoro. Ma se pensiamo di delegare tutto... Rischiamo di appiattire, di perdere originalità. La scrittura, il video, l'audio sono solo l'ultimo pezzo di un puzzle che parte molto prima, dall'idea, dalla ricerca. E allora come facciamo? Come la integriamo senza farci, diciamo, mangiucchiare? La guida suggerisce, mi pare, di partire da se stessi, analizzando il proprio metodo di lavoro. Proprio così. È cruciale guardarsi dentro, capire come lavoriamo di solito, dall'idea iniziale fino alla pubblicazione, scomporre il processo. Per vedere i punti dove l'IA può davvero dare una mano. Esattamente. E non solo per fare prima, attenzione. Certo, il tempo è importante, ma l'obiettivo vero è potenziare la qualità, liberare la mente. Ah, interessante questo punto, liberare la mente. Sì, pensa a questo. Deleghi all'IA compiti un po' più meccanici, tipo fare ricerche vaste, sintetizzare documenti lunghissimi. E ti resta più spazio mentale, più energia. Per cosa? Per le cose dove serve il tuo giudizio, la tua sensibilità. Si crea un circolo virtuoso, capisci? Capisco, capisco. E ci sono già modi pratici per farlo, no? Metodi concreti. Certo, si possono mescolare metodi vecchi e nuovi. Ad esempio, c'è questo metodo andata e ritorno. Parli con un chatbot, prendi spunti, bozze. E poi li lavori tu in un editor normale, li sistemi, li organizzi. Esatto. Oppure un approccio più integrato fin dall'inizio. Usi magari un organizer tipo OneNote per buttare dentro di tutto. Articoli, note vocali, link, immagini. Tutta la materia grezza. Sì. E poi ci affianchi un analizzatore IA tipo Notebook LM che ti aiuta a leggere tutto, a collegare le cose, magari a trovare connessioni che ti erano sfuggite. Forte. E l'IA può servire anche per, diciamo, riciclare i contenuti, adattarli a canali diversi? Certo. Pensa a un articolo lungo che diventa un'infografica. O un webinar che si trasforma in un ebook. La guida faceva l'esempio di un podcast sulla street photography, proprio con un flusso di lavoro per adattarlo. Però c'è un però grande, mi sa. Bisogna stare attenti a quello che l'IA produce. È fondamentale. La supervisione umana è imprescindibile. Questi sistemi possono avere allucinazioni, EAS, presenti nei dati con cui sono stati addestrati. Ci sono studi, tipo quello di Stanford, sulle immagini generate, che lo mostrano chiaramente. Quindi controllare i fatti è il minimo, ma serve anche altro. Certo, serve l'intervento umano per dare originalità, per sfidare magari gli stereotipi che l'IA ripropone, per dare un contesto culturale che la macchina non può capire a fondo. Noi mettiamo il significato, l'intenzione. Esattamente. Usiamo l'output come base, ma poi costruiamo noi. E un ultimo aspetto, forse più tecnico, ma non meno importante. Scegliere lo strumento giusto. Sì, non basta guardare solo quanto è potente il modello linguistico, l'LM che c'è sotto. Conta molto anche come interagisci con lo strumento, l'interfaccia. Se è scomoda, ti blocca. Esatto, magari hai un motore potentissimo, ma se l'interfaccia non ti aiuta, non ti trovi bene. A volte è meglio uno strumento un po' meno avanzato, ma più comodo per te, per il tuo modo di lavoro. Quindi alla fine non è tanto una corsa all'ultimo tool uscito. No, direi di no. Quanto piuttosto un lavoro continuo sul proprio metodo personale, integrare gli strumenti in modo critico, strategico. Proprio così. E questo, guarda, mi fa venire in mente una riflessione finale, forse un po' provocatoria. Sentiamo. Mentre noi integriamo questi strumenti per migliorare i nostri metodi, siamo sicuri che siano solo appunto strumenti passivi? O non è che magari piano piano stanno anche cambiando il nostro modo di pensare, di creare, di risolvere i problemi? Bella domanda. Ci lascia con qualcosa su cui riflettere, per essere sicuri di rimanere noi al centro del processo creativo. Grazie per questa analisi. Grazie a te.